capitolo 27 dei 12 principi, ciascuno dei quali aveva nel tuo mese il comando di 24.000 soldati, e dei principi, over prefetti delle tribù, dei tesori, e delle altre facoltà del re. I figliuoli poi di Israele, i quali sotto i loro capi di famiglie, e tribuni, e centurione e prefetti servivano al re divisi nelle loro schiere, e si davano il cambio ogni mese dell'anno, erano in numero di 24.000 con un capitano. La prima banda di 24.000 per il primo mese aveva per capitano Gesboam figliuolo di Zabdiel, della stirpa di Fares, e il primo capo di tutti i capi dell'esercito, nel primo mese. Alla banda del secondo mese comandava Dudia di Aoi, e dopo di lui Macellot, il quale comandava una parte dei 24.000. Capo parimente delle terza banda il terzo mese era Banaia sacerdote figliuolo di Gioiada, che aveva 24.000 uomini sotto di sé. Questi è quel Banaia fortissimo tra quei 30, e capo dei 30. E alla sua banda presiedeva, in secondo luogo, Amizabad suo figliuolo. Quarto capitano pel quarto mese Azai il fratello di Joab, e dopo di lui Zabadia suo figliuolo, la sua banda era di 24.000. Quinto capitano pel quinto mese Samaoti di Gezer, la sua banda di 24.000. Sesto pel sesto mese Ira figliuolo di Acces di Tecua, la sua banda di 24.000. Settimo pel settimo mese Eles di Falloni della tribù di Efraim, la sua banda di 24.000. Ottavo per l'ottavo mese Soboshai di Usati, della stirpe di Zarai, la sua banda di 24.000. Nono per il nono mese Abiezer di Anatot, dei figliuoli di Gemini, la sua banda di 24.000. Decimo per il decimo mese Marai di Netofat della stirpe di Zarai, e la sua banda di 24.000. Undecimo per l'undecimo mese Banaia di Faratnon, della tribù di Efraim, e la sua banda di 24.000. Duodecimo per duodecimo mese Oltai di Netofat, della stirpe di Gotoniel, e la sua banda di 24.000. Primi delle tribù di Israele, di cui di Ruben era il primo Eliezer figliuolo di Zecri, di quei di Simeon Safatia figliuolo di Masha, di quei di Levi Esabia figliuolo di Camuel, di quei d'Aronne, Sadoc, nella tribù di Giuda Eliu fratello di David, in quella di Sashar Amri figliuolo di Michael, in quella di Zabulon Gesmai figliuolo di Abdia, in quella di Neftali Gerimot figliuolo di Oziel, in quella di Efraim Osee figliuolo di Ozazia, nella mezza tribù di Manasse Joel figliuolo di Fadaia, nella mezza tribù di Manasse Ingaladiaddo figliuolo di Zasharia, in quella di Beniamini Asiel figliuolo di Abner, in quella di Dan Eziel figliuolo di Geroam, questi i capi dei figliuoli di Israele. Ma Davide non volle contarli dai 20 anni in giù, perché il Signore aveva detto di moltiplicare Israele come le stelle del cielo. Joab figliuolo di Sarvia aveva principiato il censo, ma non finì, perché l'ira di Dio era piombata sopra Israele. E perciò il numero di quelli che erano stati noverati non fu scritto nei fasti di David. Soprintendente dei tesori del re fu Azmot figliuolo di Adiel, di cui tesori poi, che erano nelle città e nei villaggi e nelle torri, era soprintendente Gionata figliuolo di Ozia. Ai lavori poi della campagna e ai contadini che lavoravano la terra presiedeva Ezri figliuolo di Chelub, e Semei aromatite ai vignaiuoli, e alle cantine Zab di Afonite. Balanan di Geder aveva cura degli oliveti, e dei luoghi piantati di fieni nelle pianure, e Joas delle conserve di olio. Agli armenti, che pascevano nel Saron, era preposto Setrai di Saron, e a buoi nelle valli di Safat figliuolo di Aldi. Ai cammelli Ubil Ismaelita, agli asini Iade di Meronat. Alle pecore Yatzi Zagareo, tutti questi erano amministratori dei beni del re David. Ma Gionata zio paterno di David, uomo letterato, e prudente era suo consigliere. Egli, e Aiel figliuolo di Asciamoni stavano attorno a figliuoli del re. Parimente Achitofel era consigliere del re, e Shusai Arachite amico del re. Dopo Achitofel fu Gioiada figliuolo di Banaia, e Abiatar. Capitano generale dell'esercito del re era Joab. Note, i figliuoli poi di Israele, i quali sotto i loro capi ec. Davide fin da primi tempi del suo regno per esercitare la gioventù nel mestiere dell'armi, e aver sempre pronto a sua difesa e del regno un corpo considerevole di soldati, divisa l'età militare in 12 bande di 24.000 uomini per ogni banda, ordinò che ogni mese una di queste fosse sotto le armi pronta a tutti gli ordini dei re. Così tutte queste bande, che si davano il cambio ogni mese, dormivano con loro ufficiali e comandanti un corpo di 300.000 soldati scelti e avvezzi alla guerra, i quali in poco tempo potevano raunarsi per qualunque occorrenza. I 24.000 si prendevano da tutte le tribù, e da queste erano mantenuti nel tempo del loro servizio, impero che questa milizia era di onore, ma non di lucro, né davasi stipendio. Ogni comandante generale dei 24.000 del suo mese aveva un aiuto, ossia un secondo per quando il primo fosse o malato, o assente. 2. Banaia sacerdote. Banaia, di cui è altrove parlato più volte, non è chiamato sacerdote, se non in questo luogo, onde molti interpretano questa parola nel senso di consigliere, come Reg. 8. 2. Primi delle tribù di Israele. Questi avevano una preminenza di onore e di dignità, in quale sorrente era data all'età. I principi poi descritti di sopra, capi delle milizie, erano scelti dal re per loro valere e capacità nelle cose della guerra. Non si sa il perché sia tralasciata la tribù di Aser e quella di Gad. 2. Perché il Signore aveva detto di moltiplicare ec. Ebbe scrupolo a far come gli israeliti da 20 anni in giù, perché poteva apparare che egli volesse far prova, se Dio veramente avesse adempiute le sue promesse, ovvero perché egli vide che il numero era troppo grande e trascendente. 2. Il numero. Non fu scritto nei fasti di David. Vedi quello che si è detto. Reg. 24. I. 2. Di quei tesori poi, che erano nelle città, ec. Dei tesori, che erano fuori di Gerusalemme. La voce tesoro si prende più volte nella scrittura per le conserve, ossia magazzini di grani, vini, oli, masserizie, ec. E di questa specie di tesori era probabilmente custode in capite Gionata figliuolo di Ozia. 2. Belsaron. Fertilissimo paese di pianura, che stendevasi da Cesarea di Palestina fino a Gioppe. 12. 2. A cammelli Ubil ismaelita. Ubil, ovvero Abil, significa un guardiano di cammelli. Gli ismaeliti avevano gran copia di cammelli, e Davide prende perciò un ismaelita a governare i suoi, come un agareo a governare le sue pecore, perché gli agarei erano buonissimi pastori. 2. Stavano attorno a figliuoli del re. Erano governatori e precettori dei figliuoli di David. 2. Dopo Ascitofel fu ec. Dopo la tragica morte di Achitofel, cui che seguono furono consiglieri di David.